eleganti e più lussuosi. C'è sempre gente che non scorda i suoi problemi. C'è sempre gente che si parla sottovoce perché rispetta l'etichetta perfezione. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi tu puoi trovare piatti scelti e raffinati, ma se vuoi ridere e scherzare devi uscire. È meglio un'osteria per non pensare ai guai. All'osteria la gente si accontenta di bere un po' di vino facendo uno spuntino. All'osteria si canta in allegria, si scherza sempre, la tristezza non c'è mai. All'osteria si ride in compagnia, si scherza sempre, la tristezza non c'è mai. All'osteria la gente si diverte e pochi soldi le sono sufficienti per acquistare tutti i sogni che non vende il più lussuoso dei ristoranti. All'osteria il tempo passa in fretta, non c'è nessuno da solo che si annoia. All'osteria non ci sono mai problemi, ci si accontenta di quel poco che sia. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi c'è sempre gente che non scorda i suoi problemi. C'è sempre gente che si parla sottovoce perché rispetta l'etichetta perfezione. Nei ristoranti più eleganti e più lussuosi tu puoi trovare piatti scelti e raffinati, ma se vuoi ridere e scherzare devi uscire. È meglio un'osteria per non pensare ai guai.